luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono a Genova, sono nel Palazzo Ducale dove si è aperta una mostra davvero interessante. Anche in questo caso si tratta di un'opportunità rara per gli italiani di poter vedere un'antologia di capolavori che vengono da un grande museo americano, dall'Istituto di Arte di Detroit. Detroit è una città naturalmente che ha sempre avuto una vocazione industriale e infatti le collezioni sono frutto della donazione, della generosità dei grandi industriali di Detroit, in particolare della famiglia Ford, che lasciarono a questa istituzione opere d'arte molto particolari. Perché molto particolari? Perché quegli americani a fine 800, inizio 900, quando si forma questa collezione, non pensavano tanto all'arte antica, all'arte del Rinascimento, del Medioevo italiano, ma collezionavano le opere degli artisti che si erano appena fermati. E quindi a Genova è stata portata una selezione di opere molto importante che raccontano praticamente il passaggio dell'arte tra l'Ottocento e il primo Novecento. Quindi noi incontreremo dei meravigliosi Van Gogh, dei Cézanne, dei Gauguin, dei Monet, dei Matisse, fino a un nucleo molto molto consistente di Picasso. È una storia singolare questa del Museo di Detroit, perché per tanto tempo il museo è stato un aspetto, diciamo, secondario della vita cittadina, ma adesso con la crisi economica che ha colpito anche quella città, che ha portato alla nota fusione tra l'altro della Chrysler con la Fiat, le autorità si rendono conto dell'importanza anche economica che questa collezione straordinaria ha, e infatti queste mostre vengono sostanzialmente prodotte e portate in Europa naturalmente attraverso il pagamento di un affitto, diciamo, delle opere d'arte. Al visitatore queste cose interessano poco, interessa molto poter vedere appunto le opere, che anche in questo caso sono state sistemate in sequenza cronologica, non certo nei nuclei dei singoli industriali che donavano queste opere. In quel periodo era molto divertente apprendere che i vari direttori dei musei che stavano nascendo incitavano questi industriali, per esempio, a convertire il grasso di maiale in opere d'arte, le manifatture in tele, le partecipazioni alle ferrovie in grandi sculture del Rinascimento e anche dell'età moderna. Quindi questo museo e questa selezione che vedremo a Genova ci racconta proprio la storia di questo collezionismo di imprenditori che però colgono l'attimo dell'arte del loro tempo e raccolgono Van Gogh, raccolgono Cézanne, Gauguin, Matisse, fino al grandissimo Picasso, che diventerà uno dei grandi artisti più ricercati dai collezionisti americani, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale.